to cradle the sun. Living in remorse, sky is over. Don't you want to hold me, baby? Disappointed, going crazy. Even though we can't afford, the sky is over. Even though we can't afford, the sky is over. I don't wanna see you go, the sky is over. Even though we can't afford, the sky is over. Behind closed eyes lie the minds ready to awaken you. Are you at war with land and all of its creatures? You're not so gentle, persuasion is renowned to wreck economies of countries, of empires, the sky. Questo singolo per Serge Tankian con Sky's Over da Elect the Devil, suo primo album solista. Grande. No, allora, bello il messaggio di Zio Ponte, dice: ma che voce ha sto qua? Gran concerto all'Alcatraz, c'eri? Sì, sì. Ricordo che ero ancora in diretta la sera, ma sono scappata per il concerto di Serge Tankian, perché ho detto non posso perdermelo, ed è stato molto molto bello, mi è piaciuto. Saluto anche Lucy dalla Romagna, un bacione. Ieri Lucy ci ha scritto, ha detto: io verrei su a Milano per il 31, però non so come arrivare. Allora Stefano, un ragazzo dalla Romagna, ci ha scritto, ha detto: la porto io in moto. Allora poi li abbiamo messi in contatto e si sono conosciuti. Vedremo adesso se scatterà anche qualcos'altro. Ormai è ufficiale, faremo strano amore dopo il 31, ma anche no, per carità. Saluto anche Tiziano da Livorno, dice: il 31 vi veniamo a saccheggiare dischi e portatili. Guarda, onestamente ci avevamo pensato anche noi, ma purtroppo non si può fare. Saluto anche Vecchio Mela da Prato, dice: ora però provo a dormire in auto con il sottofondo rock, visto che stanotte ho fatto tardi nella family. Eh sì. Saluto anche James da Filo, provincia di Ravenna. Hai perfettamente ragione nel tuo messaggio, anzi io ti consiglio di andare su Rock Family, e c'è già una sezione dedicata a questa tua proposta e molti ovviamente hanno aderito. Però, ti consiglio di andare lì, così capisci. E anche gli ascoltatori capiscono. Intanto vi lascio con un piccolo promemoria e poi ci saranno gli U2 con un grandissimo successo e parleremo proprio di una cosa, tra virgolette, legata agli U2. Una t-shirt con il logo di Country Skyline e di Rock FM in regalo ai primi 100 che si prenoteranno alla serata di venerdì 23 maggio, Country Skyline Farewell Night. Una serata con i Turnover sul palco del Milwaukee 50s Diner e un DJ set di Maurizio Faulisi. Invia subito una mail di prenotazione a info@milwaukeediner.it o telefono allo 0362 583 073. Il locale si trova a Varedo, in provincia di Milano, sulla superstrada Milano-Meda. Informazioni su www.milwaukeediner.it oppure www.myspace.com/Maurizio Faulisi. Rock FM. con questa bellissima The Unforgettable Fire, canzone che fa proprio parte del loro album intitolato The Unforgettable Fire, album meraviglioso. E a proposito di U2, come ben sapete sono al lavoro per il nuovo album, ma tra poco a Dublino nascerà anche questa U2 Tower. Alcuni sono molto felici, altri un po' meno, perché è praticamente un edificio enorme a forma di triangolo e piegato sul lato, insomma un per molti un mostro, per altri un po' meno, e ovviamente in cima ci sarà lo studio di registrazione degli U2 che sarà isolato dal resto degli edifici, ci sarà, non dico un centro commerciale, ma ovviamente ci saranno diversi uffici, diversi negozi. Ecco, alcuni abitanti di Dublino che amano gli U2 hanno detto: ma che bella questa U2 Tower, altri hanno detto: ma no, anche no. Grazie, anche no. Vedremo, comunque si parla ancora, perché ovviamente sono... Fermata del metro Garavelli non lo so, però ovviamente sarà in un punto facilmente raggiungibile dai mezzi. E ovviamente gli U2 sono i maggiori azionisti, stranamente, di questa U2 Tower, e stanno definendo alcune cose proprio in questo periodo, e se tutto va bene tra poco si inizierà con la costruzione proprio di questo mega edificio. Ma noi non ci saremo per seguire i lavori in corso, ma magari ci trasferiamo anche a Dublino, perché no? Dublino, insomma, ci sta sempre. Ora vi lascio con una band inglese e si sente, sono i Cooks con Always Where I Need to Be. She don't know who she is. Oh, I can take her anywhere. Do whatever comes naturally to you. You know she just don't care. To be a hummingbird, whisper words in her ear. Oh, now you know I just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you eventually. Get out the door. Gonna kick you when I saw what you were. Ovviamente siamo molto curiosi, stiamo seguendo con particolare interesse le vicende legate ai Velvet Revolver, ma soprattutto siamo curiosi di sapere chi sarà il loro nuovo cantante, visto che Scott Whelan se n'è andato per riformare gli Stone Temple Pilots, con i quali ha già fatto una data, con i quali sta già pensando ad un possibile nuovo album, mentre invece Velvet Revolver in questo momento sono un po' spiazzati, ma secondo me, e lo stavo dicendo proprio ieri, non più di tanto, visto che sicuramente qualche piccola idea ce l'hanno per quello che sarà il nuovo cantante, ma non vogliono fare nomi, giustamente per un discorso di scaramanzia. Poi quando il tutto sarà sicuro, quando finalmente ci sarà un nuovo vocalist, faranno un bel comunicato. 13:49, ancora insieme per pochi minuti, tra poco ovviamente con voi ci sarà Max De Rieu, ma noi intanto continuiamo con questa band australiana che vedremo anche tra poco dal vivo all'interno della prima giornata del Gods of Metal. Anche in questo caso siamo molto curiosi perché i ragazzi ci piacciono. Sì, assomigliano forse un po' troppo agli AC/DC, quindi nulla di nuovo, se vogliamo. Però è quell'energia che ci piace. Sì, si chiamano Airborne. Tra diversi mesi verrà pubblicato anche il loro primo album. Intanto, ancora una volta, li ascoltiamo con Running Wild. Wherever I go. Tobias Summit degli Avantage quest'oggi con noi, con Carry Me Over, 13:56. Saluto anche Carranza da Lucca, dice, ma di chi era quella bomba di pezzo poco fa? Erano i Velvet Revolver con Get Out The Door, il loro ultimo singolo. Un bacione a Leo, dice, si vocifera di Sebastian Bach come nuovo cantante dei Velvet Revolver. L'avevamo sentita anche noi questa voce, poi smentita, poi confermata, poi smentita di nuovo, quindi esattamente non si sa. Dice, anche se a questo punto, dice, io lascerei perdere con i Velvet e chiamerei Axel per la reunion del secolo. Ma anche quella è stata già smentita, quindi insomma. Maio dice, fossi Slash chiamerei Mason, ex Lynch Mob, per me è il migliore sulla piazza attualmente. Beh, potremmo così riportare ai ragazzi questo tuo consiglio. Un bacione a Fungo, dice, le avete già fatte le magliette di Rock Family? In Romagna sono già ricercate come oggetto di culto. Non ancora, però insomma so che in diversi ci stanno pensando. Saluto Alessandro da Firenze, dice, purtroppo il 23 suoniamo a Genova e mi perderò la serata, spero di poter venire a Milano la prossima settimana, mi piacerebbe tanto tornare a trovarvi. Noi siamo qui, via Locatelli numero 1. Intanto in chiusura saluto chi mi dice, siete veramente il nostro orgoglio, tranquilli che ricominciare è molto rock, te lo dico per esperienza. Speriamo, guarda, a questo punto ti dico solamente speriamo. Saluto anche Franco, un bacione grande, saluto tutti, visto che il mio spazio è... basta, non ce n'è più, finito. Per gli amici di Milano, ma soprattutto per le Rock Family Girl, questa sera l'appuntamento al rock and roll, storico locale, anche quello ormai è la nostra seconda casa, vi aspetto questa sera dalle 23 in poi, o 22:30 facciamo anche, altrimenti per la radio invece ci ritroveremo domani da mezzogiorno alle 14, vi lascio con l'ultima di oggi, Monster Magnet con Wall of Fire e poi Max Terry, un bacione!